Fai sempre tutto facile col tuo sorriso ammaccato. Smonti tutto e mi sento di Lego. E poi mi abbracci e prendo il treno. Mi uccide stare troppo sola a pensare al futuro, a tutte quelle illusioni, al veleno. Almeno tu resta sincero, davvero. Ora sento che sento di piangere, ma mi sforzo se penso di ridere senza di te. E non provo neanche a fingere, tanto sono favole, favole, favole, favole, favole che ci diciamo. E sono stupide, stupide, stupide, stupide finché poi non ci crediamo. E dici che non ti sbagli, ma sbagli e lo sai. Mentre mi dici ci vediamo presto, ma volevi dire mai. E fingi pure stasera mentre dici che sono favole, favole, favole se ci crediamo. Vorrei cambiare faccia ai miei punti deboli, che sembra un reality di convenevoli. Ma stasera faccio tardi per non dirti che